America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. I am asking everyone watching tonight to seize this moment, believe in yourselves, believe in your future, and believe once more in America. Thank you, God bless you, and God bless the United States. Donald Trump, grande debutto al Parlamento americano, riudito in seduta plenaria ieri notte. Devo dire, questa è una delle liturgie più solenni della democrazia americana, perché non è formalmente il discorso sullo Stato dell'Unione, perché quello, insomma, bisogna che il Presidente sia stato in carica almeno un anno, però è l'equivalente. Diciamo che è lo Stato dell'Unione dopo un mese di presidenza Trump, un mese che tra l'altro è stato quasi lungo quanto un anno. I temi sono stati, ce li aspettavamo, riduzione delle tasse, protezione dei confini da immigrati illegali, ma anche da commercio illegale. Fair trade, continua a ripetere Trump, un aumento delle spese militari, gli investimenti infrastrutturali, insomma cose di cui abbiamo parlato e vi ripeto, ne parleremo nei prossimi giorni. Però oggi non vorrei soffermarmi sulle questioni più tecniche, perché quello che mi ha colpito nel discorso di Trump è, in realtà, vedendo visivamente il presidente Donald Trump che parlava in Parlamento, come dire, si è avuta, almeno io ho avuto, questa sensazione di questo grande cambiamento epocale. Trump rappresenta un cambiamento radicale nell'approccio americano al multilateralismo, alla gestione degli affari globali, ai parametri di apertura sia sul piano economico che su quello dei diritti. E insomma, Trump sta portando con sé una vera rivoluzione, ed è una rivoluzione su cui una buona parte degli americani lo sta seguendo, perché si sono stufati dello status quo, si sono stufati delle cose che sanno di muffa e vogliono cambiare. Ecco, ho avuto come la sensazione di essere un po' un bivio storico, anche perché l'altro giorno è riuscito a conquistare quella parte del partito conservatore che gli era ostile, e alla fine in molti lo seguono anche quando accusa la stampa di mentire, di diffondere fake news, notizie false. Ecco, anche questo non l'aveva mai fatto nessuno prima di lui, eppure funziona. E dunque, mentre seguivo questo discorso e così seguivo questi pensieri, mi è venuto come un flash di una cena a cui ho partecipato qualche giorno fa, sabato, esattamente sabato scorso, per celebrare tra l'altro un matrimonio fra chi e chi? Beh, il matrimonio fra Alessandra Stanley e il suo college sweetheart, Louise Linfield. I due si conoscevano al college, lui la corteggiava, lei non ci stava, insomma, si sono persi, ciascuno ha avuto una sua vita, ciascuno ha avuto i suoi figli, e poi si sono ritrovati 30 anni dopo ed è sbocciato l'amore. Dunque, a loro faccio gli auguri miei, ma anche di tutti noi, perché, come dire, alla fine, nelle storie, è sempre possibile il lieto fine. You know, he was kind of truth teller in the beginning until it, you know, he turned into a not truth teller. C'era Maureen Dowd, editorialista storica del New York Times, c'era David Schwartz, che ora sta scrivendo un libro su Enrico Fermi, pensate. Però Schwartz mi raccontava, era tutto davanti a me, dice: sai, ho lavorato negli anni Ottanta allo schieramento dei missili Pershing in Italia, Comiso. Dico: ma come, ci ho lavorato anch'io? C'era Craxi, presidente del Consiglio. È stata la svolta dell'amministrazione Reagan, che poi rappresentò il principio della fine per l'Unione Sovietica. Ecco, un passo indietro nella storia, non fake news, ma quello che succedeva in termini concreti. C'era Joe Klein, che negli anni 90 era stato il capo dell'antitrust di Clinton, aveva bloccato Microsoft, poi è stato il capo del Dipartimento per l'Educazione con Bloomberg, ha creato degli straordinari programmi innovativi. Ecco, questo per dire che nell'era pre-Trump, che mi è passata così in questa cena in un lampo, beh, sono state fatte delle cose molto serie per la gestione della globalizzazione, del multilateralismo, insomma, le cose evolvono, cambiano, finiscono, ma resta sempre una porta aperta. Want to be wrong. That's what resisting it is all about, is to make sure that the alarm is not realized as a reality. Un'altra porta aperta, avete ascoltato la sua voce, era quella di David Remnick, perché pochi giorni fa ero andato a partecipare a una trasmissione televisiva in America al Charlie Rose Show, in cui si parlava di Putin e l'Europa, e sono andato a rivedermi uno straordinario articolo che aveva scritto sul New Yorker, in cui ricostruiva come Putin, già all'inizio degli anni 90, quando l'Unione Sovietica si era sgretolata, pensava di ricostruire l'impero. David Remnick è stato corrispondente dal 1988 per il Washington Post da Mosca, prima di diventare direttore del New Yorker. E poi vi ho detto, c'era anche Maureen Dowd. Pensate, abbiamo seguito, a parte vari vertici, ma in particolare il vertice di Venezia, il G7 del 1987, quando c'era Ronald Reagan presidente. E dov'è che ci siamo trovati con Maureen all'ultimo grande evento storico? A Cuba l'anno scorso, il viaggio di Barack Obama a Cuba, un viaggio, devo dire, entusiasmante, sicuramente storico, criticato da molti, però ha segnato una pietra miliare. Insomma, queste non sono fake news, sono delle analisi, degli approfondimenti, c'è molto olio di gomito, questi viaggi sono difficilissimi, sono faticosi, ci sono i vertici, ci sono documenti che si devono studiare per capire come il mondo va avanti. E allora eccolo il ponte tra il discorso di ieri sera di Donald Trump, il suo debutto in Parlamento, un evento direi storico come la storia che sta cambiando con lui, e questa cena che guardava all'indietro. Per me le cose non si chiudono, le cose vanno avanti. Guarda caso, proprio ieri sera, in questo discorso, ripeto, storico di Trump al Parlamento, abbiamo colto una moderazione nei toni, e forse anche lui ha capito che non si può cancellare il passato, che le cose si costruiscono, sono stratificate, e che per lui in questo momento, del resto questo l'avevo osservato più volte, è, come dire, più importante impersonare il ruolo dello statista che quello del rivoluzionario in campagna elettorale perenne. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive momenti di tensione, come sempre, apre una nuova frontiera, potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno, beh, grande sorpresa, perché i cambiamenti ci sono per tutti, il cambiamento c'è per me, anche che adesso farò più l'editorialista e meno la cronaca, e forse un po' la nostalgia di sapere che magari a questi viaggi ci andrò meno di quanto non ci sia andato in passato, mi ha riportato alla memoria una vecchia canzone che avevo scritto tempo fa. Dunque, dov'è la sorpresa di oggi? Invece di farvi ascoltare una canzone americana, come sempre faccio, vi farò ascoltare una canzone italiana, scritta da me, interpretata da me. Perdonate tutto, per cortesia, ascoltatela e nel vostro cuore perdonate questa piccola debolezza. Ma perché l'ho fatta? Perché è stata scritta a New York, è stata scritta in America molti molti anni fa e ancora non l'ha ascoltata nessuno. È una storia d'amore, queste storie d'amore, soprattutto quelle che finiscono, sono in assoluto il simbolo del distacco, del cambiamento, ma anche del dopo, perché alla fine le cose cambiano, ma la vita prosegue. E allora eccola, di Mario Platero, mi raccomando, indulgenza, il Chi se ne frega. E chi se ne frega di questo, di quello? Chi se ne frega di te, del brutto, del bello, del tempo che passa e non ti lascia mai solo, di quello che hai fatto e che ha preso già il volo. Chi se ne frega dell'olio che manca, di quelli che dicono hai l'aria un po' stanca. Chi se ne frega di tutto, di tutti, alla prossima cena. Di quello che hai dato e non ne valeva la pena, dei topi che muoiono, di un cavallo selvaggio. Chi se ne frega del cielo, del sole, di un matto che gira e del suo coraggio. Chi se ne frega di un mondo che abbiamo lasciato, un attimo dolce che abbiamo passato. Chi se ne frega di quelli che dicono infischiatene, intanto l'hai dato. Del vento che oggi soffia un po' forte, dei pochi vestiti che mi sono rimasti per partire in esilio e prepararmi a lasciarti, e del tuo sorriso che mi guarda un po' ambiguo indicandomi il ganzo del palazzo qui attiguo. Chi se ne frega delle tue decisioni, le prese da sole, non mi rompi i coglioni, di tutti i problemi che sono cresciuti solo perché tu li hai voluti. Lascio pure definire il bello, tanto non mi frega né questo né quello, non mi frega niente, e mi dispiace davvero perché ora ti lascio senza neanche un pensiero. Ah, Bene, questo era il Chi se ne frega. Se volete cercarla su YouTube, in questo caso ecco, vi do un segnale invece di modestia, perché potete trovarla sul Chi se ne frega di Mario Platero. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.